Dialogo 28. Raccontò Abu Ubaida. Un giorno chiesi all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: o apostolo di Allah, c'è qualcuno migliore di noi che abbiamo accettato l'Islam e abbiamo duramente combattuto insieme a te? Rispose: c'è. È colui che verrà dopo di me e crederà in me senza avermi visto.